Radio 24 Reportage. Deoband, tra i puri dell'Islam, di Cristina Balotelli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin. Mohamed Zahir ha 6 anni e viene dal Tagikistan. La sua famiglia l'ha mandato a studiare il Corano a Deoband, centro spirituale dell'Islam Deobandi, la corrente più conservatrice al mondo. Qui si formano gli studenti coranici o taliban, ma niente armi. La sola arma è la parola del profeta. Centinaia di piccoli Mohammed arrivano da tutta l'India e dall'estero per studiare teologia all'Università Islamica Darul Ulum, seconda per importanza e prestigio solo ad Al-Azhar del Cairo. Bismillahirrahmanirrahim. La strada che collega Delhi a Deoband è accidentata e trafficata. Dopo 5 ore di viaggio si ha l'impressione di essere arrivati in Afghanistan. Le donne girano con il burqa, gli uomini portano la barba lunga e i tradizionali copricapo bianchi islamici. Non sembra di essere in India, qualche chilometro a nord della capitale. Sembra piuttosto di essere nel luogo in cui si preparano i quadri dell'integralismo islamico. Si dice che i talebani di Afghanistan e Pakistan seguano la dottrina Deobandi. It is quite correct that the Taliban of Afghanistan or Pakistan, they follow the Deobandi doctrine. Yeah, it is true. È vero. Ma non la seguono nel modo veritiero. L'imam Abdul Malik Faroji è il mufti dell'Università Islamica Jamia Hamdard di Delhi. La gente pensa che i talebani seguano la dottrina Deobandi, ma la nostra dottrina vieta di uccidere donne o bambini e di causare problemi al proprio paese. Ma a loro non interessa. Lo fanno perché ritengono più importante raggiungere un certo obiettivo. Ciò che conta è il fine per loro. Ma il Corano dice che se tu uccidi una sola persona innocente, è come se avessi ucciso il mondo. Nel suo libro Talebani, Islam, petrolio e il grande scontro in Asia centrale, il giornalista pakistano Ahmed Rashid scrive che le origini ideologiche dei talebani vanno rintracciate tra i deobandi. Vero, ma loro stanno usando la dottrina nel modo sbagliato, perché in tutta la nostra storia non abbiamo mai predicato lo spargimento di sangue innocente, indipendentemente dalla bontà dell'obiettivo della lotta, anche se fatta il nome del jihad. Mai uccidere una donna, mai uccidere un bambino, mai uccidere un innocente. Devi raggiungere i tuoi obiettivi, ma senza sacrificare innocenti. Quindi, nell'associare se stessi ai deobandi, i talebani hanno danneggiato la nostra reputazione, rendendo un disservizio all'immagine del movimento. Perché allora gli ulema deobandi non si dissociano pubblicamente dai talebani? Yes, we do. Our leaders. I nostri leader si sono espressi criticando quello che i talebani stanno facendo in Afghanistan e anche in Pakistan. I religiosi più autorevoli di Deoband hanno condannato i loro metodi terroristi. L'imam Abdul Malik, invece, nei suoi sermoni si limita a parlare del vero Islam, senza dare giudizi. C'è un'enorme moschea a Delhi dove insegno il vero Islam. Nei miei sermoni non ho mai detto che i talebani sbagliano, né ho mai nominato i palestinesi, l'Iraq, il Pakistan o l'Afghanistan. Dico solo qual è la legge islamica e cosa insegna il Corano, senza menzionare alcun paese. E la gente mi segue. Non ho mai maledetto l'America o l'Inghilterra. Quando parlo nella moschea mi limito a dire alla gente cosa bisogna fare per seguire il vero Islam. E l'unico vero Islam è quello che emana dal Corano. Thank you. A Darul Ulom ci sono circa 3.500 studenti, ai quali viene offerto vitto e alloggio. Tutto gratuito, compresi i corsi, se gli studenti provengono da famiglie povere. Altrimenti la tassa da pagare è di 300 rupie. Se lo studente è molto povero, riceve addirittura un sussidio. Ma solo i maschi sono ammessi a studiare qui, fin dai 5 anni. Abdul Majid, 19 anni, fresco di laurea dopo 14 anni di studio, ci accompagna a visitare le classi riservate ai più piccoli, dove si studia a memoria il Corano fino alle 4 del pomeriggio. Il primo anno si studiano le lettere dell'alfabeto arabo, nel secondo e terzo si legge il testo. A un comando dell'insegnante, i bambini a turno si inginocchiano per recitare versi del Corano a memoria e in arabo. La cantilena è accompagnata da un movimento ciondolante del busto e della testa. Uno sforzo incredibile se si pensa che l'arabo non è la lingua madre di questi bambini, la maggior parte dei quali provengono da villaggi indiani. Anche alle loro famiglie viene offerto un alloggio. Tutto questo ha un costo, ma Darul Ulom non ha mai accettato sovvenzioni statali per mantenere la propria indipendenza. L'università non accetta finanziamenti dallo Stato e lo fa per mantenere la sua indipendenza. Il sostegno finanziario viene da tutto il mondo, donazioni della comunità musulmana, non solo in India, ma anche all'estero. Per avere un'idea delle spese, per esempio un solo pasto al giorno per 2.500 studenti, quelli che utilizzano la mensa, costa alle casse dell'università 12.000 rupie, circa 184 euro. E questo se si esclude la cena, che è più elaborata e costa di più. L'università di Deoband è quasi una cittadella. Ci sono gli alloggi, ci sono gli uffici, ci sono le aule dove viene impartito l'insegnamento del Corano e della storia islamica, ci sono quelle dove gli studenti studiano la lingua araba, l'arabo classico, c'è una moschea magnifica la cui architettura ricorda il Taj Mahal, c'è la mensa, c'è il forno, c'è una biblioteca fondata nel 1907 che contiene oltre 250.000 volumi di teologia islamica principalmente, ma anche di traduzioni di altri testi religiosi come i Vangeli cristiani o come la Torah ebraica. In questa biblioteca ci sono preziose copie del Corano e una piccola parte di traduzioni di altri testi sacri. Gli chiedo cosa vorrebbe fare dopo la laurea. Ingegnere informatico. Ma come? Qui non studiate per fare gli imam nelle moschee? No, voglio diventare ingegnere informatico. Anche il suo amico Sayed Mohamed Adnan, 21 anni, ha appena terminato gli studi. È indeciso se diventare medico o giornalista, ma è sicuro che non farà il teologo islamico. Vorrei fare giornalista, mi piacciono i media elettronici. You are interested in the media? Yeah, yeah. Sono indeciso tra giornalista e medico. So you are thinking between doctor and media? Yeah. But my thinking is different. I want to become software engineer. Io sono sicuro, voglio diventare ingegnere informatico al 100%, sono molto interessato ai computer. And will you get married? No, in matrimonio. No, ora. Later. And how many wives do you want? Only one. No, solo una. Only one. Qui si fa vita religiosa, niente musica, niente compagnia femminile, niente televisione, però ci sono i computer. Mohamed Khalid, zio di Abdul, impiegato presso il Ministero del Lavoro di Delhi e anche lui laureato a Deoband, spiega che l'Islam non è contro il progresso tecnologico, è solo contro quelle cose che sono considerate peccaminose e non in linea con lo spirito islamico. Il computer è uno strumento meraviglioso, dice, che deve essere utilizzato per la conoscenza, mentre la TV è proibita a Darululom perché trasmette inevitabilmente esempi di corruzione. Nell'India delle religioni c'è posto per tutti e in questo angolo del paese, a nord della capitale, sopravvive indisturbato un pezzo di Afghanistan o di Pakistan. Una sorta di cittadella dell'integralismo islamico. Alam